Blu Radio Veneto Rock. Rock Wave, l'onda del rock. Buonasera da Maurizio Calzavara, buonasera da Rock Wave, ennesima bella puntata. Pioveva oggi, però qui c'è il sole, anche se non c'è materialmente, ci sono solo le luci, c'è il sole, perché c'è il sole californiano o georgiano. Possiamo dire, io ho scritto nel sito di presentazione Brescia, provincia di Athens, o al contrario, non si sa. Buonasera ai Kaufman di Brescia. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera a Michele Tosoni in regia e a Roberto Baldi che curerà la predisposizione delle telecamere, è una cosa molto importante. Assolutamente. Perché questo nome Kaufman? Qualcuno ve l'ha chiesto un sacco di volte, ma a me non interessa proprio il nome. Perché vi siete ispirati a quel grande comico? Bah, in realtà non è soltanto Andy Kaufman. Cioè, l'impressione è che, facendo un certo genere musicale, dichiaratamente ispirato alla musica americana... Certo, musica americana, tra virgolette, perché qualcuno ha citato i Lemonheads, qualcuno ha citato i Counting Crow, ma non soltanto gruppi americani, anche gruppi non propriamente americani. Certo, ma il nome Kaufman in realtà è non solo di Andy Kaufman, grande grandissimo, comico grandissimo newyorkese. E i Rem sono collegati a lui, chiaramente. Sì, e anche, perché appunto hanno fatto Man on the Moon. Certo. E anche Charlie Kaufman, che è uno sceneggiatore hollywoodiano particolarmente geniale, quello che ha scritto Se mi lasci ti cancello, certo, e c'era John Malkovich. E poi anche, per esempio, altri personaggi curiosi, tipo Millard Kaufman, che è colui che ha disegnato Mr. Magoo. Sì. Cioè, l'impressione era di un nome che fosse al contempo pop. Ma l'avete cercato così, sul vocabolario, sì, un'enciclopedia, come è stata? Sì, no, piaceva come suonava. Certo, e nello certo stesso tempo è un nome che nell'immaginario collettivo americano richiama una serie di personaggi pop, ma nello stesso tempo dalla mentalità geniale, però non intellettualoidi, ecco, una genialità estremamente pop. Non che noi ci definiamo geniali, ma pop. Sì. Pop sì, perché anche non geniali, in qualche momento potete essere anche geniali, secondo me. No? È geniale, devono dire agli altri. Ma anche la copertina è geniale, veramente. La facciamo vedere. Ah, è là, va bene, bene qua. Ci vede adesso? Un secondo, adesso la facciamo. Ecco, adesso la fai vedere te. Un secondo, adesso la predisponiamo, un secondo. Eccola qua. Ecco, la mettiamo, benissimo. Questa è la bellissima copertina, bellissima in tutti i sensi, piena di colori. Sì. Perché così piena di colori? Vai. Chi ha avuto l'idea bellissima, ripeto? Ma l'idea è nata da noi quattro. Ci presentiamo anche come nomi, che non abbiamo ancora presentato. Io sono Leonardo. Che suoni? La batteria. Io sono Simone, bassista. Io sono Lorenzo, sono la chitarra e canto. Luigi. Cori, chitarre, e anche la tromba, tutto quello che capita. E anche la tromba, tutto quello che capita. Ritorniamo allora all'idea della copertina. Ma l'idea della copertina è un po' per ispirazione da un artista che io lo conoscevamo molto bene, americano, David Hill. Sì. E ci piaceva molto appunto l'uso delle luci e dei colori, e abbiamo cercato, dando una nostra interpretazione, di arrivare ad un prodotto simile che ci piaceva molto come colori, perché potesse in qualche modo richiamare la musica è quello che cercavamo di esprimere. Ecco, hai detto una cosa molto giusta: richiama la musica e quello che si esprime, secondo me. E questo dà una sensazione giusta, si apre la finestra bene, secondo me, non si chiude, si apre proprio la finestra. Bene, bene. A mio parere, chiaramente. Sì, sì. Sì, noi della redazione di Rock Wave, Alberto in primis, è stato catturato immediatamente da questo smile, da questo sorriso del singolo. Com'è l'idea di questo pezzo così divertente, ma allo stesso modo ben fatto, ben costruito? Ma cioè, in realtà, appunto, come cioè, la copertina richiama nei colori un aspetto molto gioioso. In realtà ci sono due aspetti: da un lato, appunto, un aspetto pop e quindi di facile ascolto, e nello stesso tempo, come è nel mondo poi universitario e così, quindi giovanile, legato anche a elementi di nostalgia piuttosto che malinconici. Cioè, Smile è un pezzo che appunto richiama i Beach Boys, chiaramente. Sì, richiama insomma. Richiama la California, ecco, possiamo, certo, dire il dentifricio, esatto. Va bene. No, richiama questo aspetto da un lato, e poi dall'altra parte però fa delle virate nel testo, nel senso che, certo, è californiano il sound, però in fondo noi veniamo da una zona dove c'è la nebbia per tutto, esatto, l'inverno. Esatto. E infatti c'è una parte della canzone che poi dice: sento qualcosa di osceno in novembre, dove è troppo tardi per comprare souvenir, cioè l'estate è ormai finita, ma è anche troppo tardi per cambiare le proprie routine, cioè si è avviati verso l'inverno e quindi c'è anche questo senso di nostalgia rispetto all'estate, che è un sentimento estremamente tipico della musica collegiale americana. Certo, cioè, ecco, la fine delle vacanze al lago. Esatto, che... qualcuno vi ha definito New College Sound. Non è una bella definizione, perché New College non vuol dire niente, vuol dire tutto. Sì, in effetti la musica college, cioè, ha una definizione molto particolare, non è un genere, no, ma è proprio un mood. Cioè, nel senso che come ci sono i pub in Inghilterra, così in America ci sono questi college, di circuito college, che ha le sue radio, ha i suoi percorsi, si formano gruppi all'interno e trovano la forza centrifuga che poi li fa diventare talmente forti da poter entrare nel mainstream. Esattamente, tra parentesi, la sigla che porta avanti il programma fa parte, nasce da un gruppo college all'inizio, che erano i REM, che chiaramente poi sono diventati immensi, però partono da là. Assolutamente sì. Ok, allora ci siamo quasi, sì, secondo me sarebbe momento di far sentire il primo pezzo. Regista di GTD, sì, ora apriamo sta finestra e sentiamo i Kaufman di Brescia. Blu Radio Veneto Rock. Eccoci qua. Ieri sera, Michele lo sa, erano le 4 di mattina, io scrivo sempre le note e... vedi? Le 4 di mattina, scrivo sempre le note, le mie considerazioni, perché, ripeto, l'ho detto un sacco di volte, ma continuo a ripeterlo. La musica a una certa ora si sente meglio. Vero. Prima non ci sono rumori, non dà fastidio a nessuno, tutti dormono, a basso volume chiaramente, ma si sente meglio, si assapora meglio. Si gusta meglio, riesce a scovare le cose nascoste, secondo me. E ieri sera ho scritto una cosa, sembra una granita di limone il vostro pezzo. Godibile come una granita di limone. dissetante. Dissetante. Anche se non era molto caldo ieri sera. Però non importa. A me ha dato quella sensazione. Come l'avete inventato il suono? Come avete incastrato gli elementi di Smile? Ma diciamo che il lavoro funziona così. Smile come altre. Generalmente sì. Io ho la scrittura del pezzo. Come nasce un pezzo vostro? Sì. Lo inventi te? Io diciamo che scrivo la linea melodica e dopodiché il pezzo viene portato al vaglio della commissione. Esatto, al vaglio della commissione che dice sì, va bene, no, non va bene e a quel punto parte un lavoro di arrangiamento. La struttura e la direzione dell'arrangiamento è di Simone. E in realtà poi tutti si vede danno... perché lui ben messo. A parte che tra tutti insomma sì, reggae, esatto. Si vede, sembra un gruppo di rugby. Sì. Beh, voi siete di Brescia, è una bella fucina il rugby a Brescia. E quindi insomma e poi ognuno dà il suo contributo. Ma darei la parola a Simone perché sull'arrangiamento e sulla struttura è il maestro. Vai Simone, dai. Ma oddio, cosa dire, è una... il lavoro che facciamo è principalmente legato al target che ci proponiamo, ossia cercare di arrivare a un pubblico più vasto possibile e far sì che questo sia di gradevole ascolto, ovviamente. E, per cui sulla base anche di le esperienze passate, anche suonando in gruppi precedenti, cerco di dare una direzione alla produzione che possa soddisfare, diciamo, la maggior parte del pubblico che ci possa ascoltare. Perché i Kafma nascono da altre peregrinazioni musicali, praticamente. Sì, e infatti noi ci siamo, diciamo, costituiti non più di un anno fa, e anche se in realtà io e Lorenzo ci conosciamo ormai da credo una quindicina d'anni. Sì, abbiamo avuto in passato altri progetti insieme dove facevamo in realtà una musica più elettronica. Adesso ci siamo concentrati un po' più sul pop, mentre i ragazzi Leo e Luis, che provengono da una città ostile alla nostra, cioè, solo calcisticamente, cioè, da Bergamo. Beh, le rondinelle non sono mica tanto messe bene. Siamo dovuti andare a prendere i musicisti a Bergamo perché sono i migliori. Ho capito. No, non è vero, sto scherzando. Insomma, ci sono state esperienze diverse che avete conglobato in realtà è abbastanza bello e incredibile che una cosa così compatta come il disco, perché in realtà è estremamente compatto, certamente. Viene da quattro persone che tutto sommato hanno delle esperienze musicali che sono radicalmente diverse, perché Luis viene principalmente dal jazz, non solo la tromba ma anche la chitarra, Leo viene dal funky, infatti il tatuaggio parla da solo. Esatto. Si vede. E quindi in realtà veniamo da esperienze molto diverse, ma nel momento in cui ci troviamo a lavorare insieme si crea una compattezza che è rara, perché secondo me il valore aggiunto si ha proprio quando persone molto diverse trovano un punto d'incontro. Se quattro persone vengono dalle stesse esperienze, in qualche modo uno è il duplicato dell'altro. Un po' più riduttivo, se hai detto una cosa giusta. Sì. Beh, interessante, molto interessante. Cioè, così abbiamo modo di avere un sacco di punti di vista diversi. Anche di infatti. Discussioni, allora. Esatto, sì. Non violente, musicalmente no, sempre. No. Non perché visto le stazze ci facciamo perché spesso eventi quando i gruppi vengono qua, dicono... Dicono sì, siamo in sala di registrazione, ma ci sono delle discussioni violente. Uno vuole un accordo, uno non lo sente bene, allora si cambia, si rifà, eccetera. Cioè, succede anche a voi? Sì, assolutamente. Assolutamente. In maniera abbastanza pacifica. Sì, sì, in maniera quindi pacifica. L'adrenalina c'è per tutti. Sì. Ok, andiamo con un altro pezzo. Apriamo ulteriormente la finestra. Che traccia avete scelto? La prima non me la ricordavo, la seconda non me la ricordo. Abbiamo scelto Empathy. Empathy, che sì. Sarà il secondo singolo e che uscirà proprio la settimana prossima, sempre per Mizza Record. Perfetto, allora ne parliamo dopo e lo sentiamo adesso, ok? Perfetto. Blu Radio Veneto Rock. I'm sorry but I cannot justify this empathy. The tears I try to hide. You cry, you cry, you cry. My galaxy, I'm conscious that I'm alive tonight, tonight, tonight. Orbiting the earth, will I collide into the heart? Rock Wave, l'onda del rock. E qua ieri sera ho scritto una cosa, qua mi sembrava molto, ma è una cosa bella secondo me, molto vicino ad Athens, questo pezzo qua. Non so se siete d'accordo, molto vicino ai Rem. Sì, sì, sì, sì. Ma perché? Non è mica una cosa negativa, assolutamente. Ci sono delle lunghezze d'onda, ci sono dei riferimenti, ma basta. La musica è vostra al 100%. Io ho sentito per i Rem nel senso positivo del termine, non negativo. Certo. Ma è bizzarro perché in realtà in fase compositiva non ho pensato assolutamente ai Rem, anzi dirò che per assurdo avevo l'impressione che il pezzo suonasse molto vicino agli Smiths. Può darsi che sia anche quello l'idea. Certo, però in realtà appunto, e questo era quello che dicevo prima, in realtà poi dall'urgenza creativa mia a poi al lavoro che noi facciamo insieme, il pezzo cambia completamente. Cioè assume delle sfumature che sono radicalmente diverse ed è bello che in realtà proprio involontariamente da formazioni culturali che non sempre hanno a che fare con i Rem, anzi spesso no, anche se ovviamente se ne tiene conto perché sono una delle band pop che ha fatto la storia del pop. Certo, certo. E in realtà poi ecco, ha questo suono che molte persone hanno collegato a questo mondo, che poi è un mondo che ci piace moltissimo, per cui in realtà può essere solo un complimento per noi. Certo, una cosa che ho notato, secondo me è una cosa vincente, avete dei ritornelli vincenti. Cioè entrano immediatamente in memoria, e questo è importante, non soltanto fare i bei pezzi, anche i ritornelli, perché la gente recepisce subito, secondo me. Non so se siete d'accordo. Sì, cioè secondo me una delle cose bellissime che si hanno nell'indipendente e che promuovono appunto l'etichetta indipendente sono... citiamo l'etichetta visto sì, che ci la siamo. Mizza Record, la Mizza Record di che Brescia. Vi ha scoperto, come vi ha scoperto la Mizza Record? Ma in realtà è un'etichetta di Brescia e quindi le conoscenze giravano. Esatto. E dicevo, una delle cose belle è che appunto promuove generi musicali e assumendosi anche un certo rischio, cosa che ormai le major tendono a fare sempre meno. Certo. Investendo più negli artisti che escono dei talent show piuttosto che da artisti che hanno un progetto preciso. E ho perso il filo del discorso. No. Della Mizza, parlavi della sì, Mizza. E appunto. No, ho perso il filo del discorso. No. Cioè, tu parlavi l'etichetta investe anche sugli artisti sì, conosciuti. Sì, quindi su generi di questo tipo in cui si ha anche una composizione e un tipo di musica che da un lato ha una grande cura dei suoni, certo, che non sono così standardizzati come avviene invece per esempio nelle major. Nelle major. E dall'altra parte però ha bisogno di ritornelli di un certo tipo o melodie particolarmente forti per poi cercare di farsi sentire, perché se è banale la musica di un indipendente, cioè, non la calcola nessuno, insomma. E il live, cosa vuol dire il live per voi? Come vi fate sentire? I live chiaramente nei vostri live show. Sì, live. Beh, prego. Vai, vai. Live, vai. Cioè, parliamo con il nostro jazzista, dai. Okay. Allora, il live, cioè, per quanto mi riguarda, ma penso che sia per tutti e quattro, cioè, è il momento in cui raccogliamo proprio la maggior soddisfazione, sia per il consenso che spesso si vede, perché comunque capita spesso a fine concerto che persone che non conosciamo vengono a complimentarsi, diciamo. E questo è molto positivo. Sì, questo è proprio il massimo della soddisfazione. E poi il live secondo me ha quella sensazione indescrivibile, diciamo, che è un misto di adrenalina, euforia, cioè ci sono un sacco di sentimenti che si mischiano insieme. E poi la cosa bella è che, cioè, a ogni live che si fa c'è sempre qualcosa da imparare, quindi ecco, cioè, è una crescita continua, quindi cioè, c'è sempre qualcosa da imparare, una cosa bellissima, perché il live è proprio un maestro di vita dal punto di vista di un musicista. Esattamente. È un musicista anche suonando dal vivo, che tutti siamo, sì, siamo capaci di, o meglio, adesso col discorso del computer si può fare di tutto, ma dal vivo è un po' difficile, anche se dicono che si può anche evitare di suonare dal vivo cantando come ha fatto Madonna, che muoveva solo la bocca davanti a 50.000 persone, ma questo è un altro par di maniche, però può capitare. Però il live è un'altra cosa, secondo me. Vabbè, sicuramente. E adesso speriamo tra l'altro di venire a suonare anche qui da queste parti a Padova in un locale, sì, non so se si può anche dire il nome. dimmi. Dovrebbe essere il Mama Non Mama. Mama sì. Non Mama, sì. Abbiamo un tour che parte dal 16 ottobre e coprirà quasi tutta Italia, almeno fino a a Frosinone, quindi faremo tutta una serie di date, e appunto dal 16 ottobre fino a metà dicembre. Padova appunto è coperta al Mamma Non Mamma. Beh, poi volevo fare solo una puntualizzazione. Dimmi. Dicendo che ai live appunto c'è questa, è importante avere il feedback del pubblico quando ci dice qualcosa, ma non tanto perché si cerchi l'approvazione, in fondo la musica la creiamo anche per noi stessi, cioè questo è l'aspetto fondamentale, sì, di ma partenza, perché quello. Certo, ma perché in realtà quando una persona dice qualcosa è perché in qualche modo gli si è regalata un'emozione, e il musicista è uno spacciatore d'emozioni, certo, quindi nel certo. momento in cui si crea questo rapporto è perché in qualche modo si è arrivati al punto. Decisamente. Allora, diretta rockwave.alterrevista.org per vederci e sentirci chiaramente stasera, e anche per vederci anche nei prossimi giorni. Siete quasi pronti? Siete Persone? Pronti? Sì, certo. Michele sì. è pronto per il live, chiaramente. Allora, che brano facciamo sentire dei nostri ascoltatori? Facciamo New York. Iniziamo con New York, che è un pezzo nuovo, non compreso nel disco. Una new entry assoluta. Una new entry, sì. Benissimo. Che presentiamo in anteprima. Benissimo. Una, okay. Adesso partiamo fra qualche secondo. Blu Radio Veneto Rock. I love you, New York. SMS 346 2320 033. Rockway, l'onda del rock. Ok, New York, non di velvettiana memoria, ma di kaufmanniana memoria, si può dire così. Sì. Perché New York, New York è un famoso pezzo di musica, ma è un grande pezzo di, anche di Lou Reed, eccetera, eccetera. Sì, eccetera. Sì, sì. Come mai New York? Beh, New York è... Che non è il West Coast, è East Coast, quindi è un po' diverso. Sì. Però in realtà New York è una città che sì. Ci piace molto. Noi abbiamo fatto il mastering a New York, è stato fatto... sì, ho letto, sì. Possiamo citarlo questo grosso sì. Artista, questo grosso tecnico che ha fatto... Allo Sterling Studio di New York è Chris Geringer, che certo. Ha fatto produzioni ben più importanti di noi. Beh, ha prodotto anche voi, dai. Cioè, è entrato anche sulla vostra produzione. Esatto. E comunque poi New York è una... Poi una città. Ma siete stati voi personalmente anche là? Sì. Ah, sei stato là anche là. È una città che poi comunque rimane nel cuore, perché certo. È una città talmente forte che in realtà accoglie in sé generi musicali di tutti i tipi. E poi è la capitale del mondo, certo. Nel senso che veramente raccoglie in sé persone di tutti i tipi e musiche di tutti i generi, cioè hai l'impressione di una città che non dorme sì, mai. Sì, a New York trovi tutto. Trovi tutto, sì. Musicalmente trovi tutto, esattamente. E ha un fascino, quindi, melting pot che è straordinario, per cui è rimasta legata a questo. La canzone poi parla in realtà di una storia d'amore struggente, ma ambientata a New York, che poi in realtà diventa la vera e propria protagonista, perché non resta sullo sfondo, ma certe volte lo sfondo diventa più importante. Come manata di Woody Allen, e come manata di Woody Allen. Sì. Sì, questa fa parte di un album che si dovrà scoprire, cioè un inedito praticamente sì. per stasera, un inedito sì. Anche da parte di vista del disco, non c'è sì, in realtà siamo in piena promozione del disco, per cui in realtà è prematuro, però ripeto, abbiamo un'urgenza compositiva, per cui in realtà ci mettiamo, oltre alla preparazione del live per il tour, poi in realtà lavoriamo anche ad altri pezzi che tutto sommato sono anche tematicamente legati a questo disco. Cosa avete? Qualche scheletro nel cassetto, cioè musicalmente parlando, avete tanti pezzi pronti nel cassetto? Ma in realtà abbiamo già lavorato a un bel po' di altri pezzi, proprio perché ci piace. Voglio dire, il lavoro di creazione del pezzo è bellissimo. Certo, cioè, certo. E quindi in realtà, in qualche modo, l'aspetto musicale si esaurisce lì. Poi c'è quando esce il disco c'è la promozione, cioè si pensa ad altre cose. Ma la fase creativa è anche il momento in qualche modo più intimo per noi quattro, insomma, cioè unisce particolarmente, perché creare musica insieme, cioè è creare una rete mentale tra quattro persone molto forte, cioè un'empatia notevole, insomma. Benissimo. E un'altra cosa che volevo chiedervi è questa: prima l'abbiamo solo accennata, ma l'idea, dove parte l'idea di un pezzo come New York? È partita da te e poi come si è sviluppata? Siete in sala di registrazione, registrate il pezzo, vi scambiate le idee, ma come parte? Com'è la macchina? Ma generalmente, appunto, io scrivo il pezzo, ma la scrittura è una scrittura prevalentemente melodica. Certo. Cioè, intendo dire... Cioè, un suono di chitarra, ecco, sì, fai un accordo, cioè, praticamente. Voglio dire, io potrei... Noi adesso l'abbiamo fatta lenta. In realtà questo è un pezzo che è fatto quando noi lo facciamo I nostri ascoltatori non lo sanno, sta mettendo il ponte. Esatto. Nel momento in cui noi facciamo questo pezzo dal vivo, sì. È un pezzo estremamente veloce. Ah. Cioè, qui l'abbiamo fatto lento e in qualche modo assomiglia più all'idea originaria. Però... io scrivo una melodia, per cui incomincio a scrivere. There's a little bit of fun out of New York. È una melodia. Nel momento in cui questa viene portata in stanza, il batterista mette il suo ritmo, che spesso è opposto a quello che io avrei pensato. Ma questo sposta il pezzo. Per esempio? Fai un esempio. Quando è arrivata questa canzone in sala prove, la velocità era molto lenta e dopo averla provata per più volte... A un certo punto, dopo la ripresa di una prova, gli ho provato a velocizzare il tempo, ma non pensando che potesse Ma hai rovinato il pezzo? No, nel senso così, hai rovinato il pezzo. Hai tagliato le gambe, per dire. Avete raddoppiato la velocità. Io sto scherzando, chiaramente, ma che voglio capire, far capire i nostri ascoltatori. Perché non c'è, e non è semplice creare un pezzo, ci vuole fatica mentale. Ma è bello così, secondo me. E, non c'è, e soprattutto non c'è una regola. In questo caso è andata in questo modo, ma altre volte succede cambia che sempre l'approccio. Simone dica no, ma quest'altra cosa facciamola in questo modo, cioè, per cui in realtà secondo me è il discorso di prima, nasce dall'empatia, cioè si crea un'unione a un certo punto tra quattro persone, per cui in realtà adesso il lavoro d'arrangiamento per noi di fatto è quasi automatico. E il nostro gestizia malato di Hendrix cosa fa? Vabbè, mette tantissimo, è fondamentale perché per esempio in questa, ma per esempio, cioè, si pensi a Smile, sì. Cioè, voglio dire, Smile per me era una melodia, certo. Cioè, e che nella parte musicale in sé non voleva dire nulla, perché fa così. Poi a un certo punto arriva Luis e Luis fa questo. 1, 2, 3. Questo e poi c'è il basso che arriva. Arriva il basso. E quindi in qualche modo ciò che prima era una melodia, la melodia è sicuramente una parte importante della composizione, ma in realtà, per esempio, in questo pezzo è vincente l'elemento musicale iniziale, perché una persona si ferma immediatamente e viene attratto prima dal riff che certo. Dalla melodia. In questo momento avete fatto una cosa molto interessante, fondamentale secondo me. Avete fatto capire ai nostri ascoltatori come si crea un pezzo vero e proprio. Ad incastri, esatto. Così, si fa così. Così, c'è niente da fare. Secondo me è molto interessante per capire, cioè, che sofferenza dal punto di vista così creativo, difficile, non è semplice. Chiaramente quando il disco è uscito, il prodotto è finito, però cosa c'è dietro? Esatto. Sì. Quello. Dietro c'è un mondo intero. C'è un mondo intero, esatto, di discussioni, di prove, insomma un po' di tutto per tirare fuori un prodotto finito. Il prodotto finito è vostro, è molto bello anche dal punto di vista della creazione del libretto, l'estetica strepitosa. Dobbiamo sottolineare questo, che le etichette indipendenti spesso e volentieri amano creare un'estetica decisamente importante, mentre le major dell'estetica proprio si disinteressano totalmente. Una volta succedeva il contrario, una volta erano altri tempi, però. Sì, in realtà è proprio il discorso della cura. Cioè, noi lavoriamo a far uscire un disco e... L'idea però è stata tutta vostra questa qua. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Tutta vostra. Dimmi. No, abbiamo fatto solo realizzare la fotografia da un nostro amico fotografo. Fabio Cattabiani. Lo citiamo. Esattamente. Lo salutiamo. Esatto. Il quale ha ovviamente tutte le attrezzature che hanno reso possibile poi la realizzazione di questi colori così vivaci. Perfetto, adesso facciamo una cosa. Io proporrei, così vi riposate un secondo, di sentire un altro pezzo dal disco, che è la traccia. Che traccia avete scelto? Vi ricordate? Don't Blame. Che è la traccia numero 3, che è la traccia mia preferita, che a me è piaciuta moltissimo e la faccio sentire spesso e volentieri. Traccia numero 3, ok. Blu Radio Veneto Rock. Quite good. Lies Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Rockway, l'onda del rock. Ok, diretta a rockway.altervista.org, ci potete sentire e vedere proprio in questo momento a Rockway di Kaufman di Brescia o di Georgia o della California o di Bergamo, un po' di tutto. E sì, io ho scelto questo pezzo da lanciare in non solo acustico, proviamo ad andare in onda dopo, perché mi piace particolarmente, ha delle atmosfere decisamente rilassanti e va bene in una certa ora di notte. Anche c'è anche la chat, sì, mi dicono che c'è anche la chat, quindi... Esatto, ci hanno scritto e li salutiamo tutti. E stanno vedendo in questo momento la chat, chiaramente ci sono le risposte. Sì, Lorenzo sta scrivendo. Bene, no, stava scrivendo poco fa. No, da qui non vedo. C'è una persona che ha salutato. Ah, okay. L'ho salutata. Esatto, salutiamo. Ringraziamo la persona che ci ha scritto e ci ha salutato, perché via internet è una cosa meravigliosa. Ci sentono da tutte le parti, chiaramente. Ritornando al pezzo, l'ho trovato molto bello, molto accattivante. Un accordo semplice ma amaliante. Ti affascina, ti prende. Non so come definirlo, a me è piaciuto particolarmente. Visto che siete voi gli autori del pezzo, l'idea come è venuta fuori? Tu mi citavi l'idea, sì, mentre i microfoni erano spenti, però adesso la puoi citare anche a microfoni aperti. Sì, eravamo proprio in studio di registrazione, stavamo registrando l'album e Lorenzo, che è arrivato mentre noi stavamo facendo la produzione delle chitarre con Luigi. Cosa vuol dire la produzione delle chitarre? La produzione delle chitarre significa registrare e scegliere le parti che andranno poi magari più o meno in risalto all'interno del pezzo, che possono creare dei tappeti sonori piuttosto che dei soli. Stavamo studiando le parti di chitarra da registrare, le stavamo anche registrando, e è arrivato Lorenzo con la sua chitarra e mi ha detto: ma senti, ho scritto questa cosa qua, cosa ne pensi? Allora ho detto: no, aspetta, fermi tutti, togliamo un pezzo, questo qui dobbiamo assolutamente registrarlo, perché mi ha colpito fin da subito e effettivamente è un pezzo che ci ha dato delle grandi soddisfazioni anche nei confronti del pubblico che, certo, lo ascolta. Tra l'altro, visto che se ne è parlato appunto della preparazione delle chitarre, visto che in studio è stata la parte che ha occupato più tempo in sostanza, e volevo appunto salutare Ronnie Amighetti, che era appunto il nostro fonico da studio, che anche lui ha contribuito in parte a questo lavoro appunto di stesura. Spiegatemi un secondo, allora avete inciso questi pezzi, poi avete costruito l'insieme, poi avete portato il master in America, è successo così? Sì, allora abbiamo registrato una parte del disco nello studio di questo appunto nostro amico che si chiama Ronnie Amighetti, che è di Costa Volpino. Che successivamente a Brescia, sì, è tra Brescia e Bergamo, esatto. Perfetto. Più verso Bergamo, oltre il confine. Successivamente siamo stati in un altro studio a Brescia, dove abbiamo registrato soprattutto le voci e mixato il disco, e una volta ottenuto il prodotto, diciamo, finito, è stato appunto portato a New York, dove abbiamo lasciato nelle sapienti orecchie del nostro di Chris Geringer, e gli abbiamo, come detto, lavora gli abbiamo lasciato questo mostro, carta bianca, questo mostro di produttore, come lavora? Ma il mastering è un processo in realtà che esoterico, cioè è troppo tecnico. Ho capito. Cioè, in effetti si pensi che in Italia in realtà ad alto livello c'è uno solo, cioè ci sono pochissimi posti al mondo che fanno questa cosa. Ed è un lavoro estremamente tecnico con dei macchinari assolutamente incomprensibili. Per cui, e costosissimi. Costosissimi. Poi, io soprattutto, poi magari Simone ha un orecchio un po' più allenato. Per me quel processo lì è completo. Cioè, sento il risultato dopo. Ma come una persona riesca a percepire le onde, a dire questo non va e questo non va, io no, assolutamente non lo capisco. Cioè... Beh, ognuno ha il suo lavoro, giusto? Esattamente. Quindi questa magia è venuta fuori dagli Stati Uniti, insomma. Esattamente. Anche però l'idea parte sempre da voi, gli arrangiamenti li avete fatto voi. Lui, diciamo, cosa ha dato? Una patina. È la patina. Esatto. È la patina, esattamente. Esatto. È come quando, per esempio, vedi una ripresa fatta con una telecamera amatoriale e poi la vedi al cinema, per esempio. Cioè, certo, la differenza. Certo. Però, Nel suono. Nel suono, ecco, esatto. Dobbiamo sottolineare che parte sempre l'idea, è sempre la vostra. Cioè gli arrangiamenti sono i vostri, le idee del suono sono le vostre. Chiaramente poi è stato lui che ha dato il tocco magico. Sì, è come dire, noi abbiamo dipinto una tela e lui ce l'ha verniciata, diciamo. E com'è stato questo collegamento? Com'è nato praticamente? Come mai siete stati in... Abbiamo scelto lo Sterling perché ci piacciono molto i lavori che hanno, cioè, che hanno i risultati sui lavori che hanno prodotto. È uno degli studi comunque più famosi al mondo. Certo, certo, chiaramente. Benissimo, allora adesso sono le 22:50, ci divertiamo per un secondo pezzo live. Cosa ci proponete adesso? Ora facciamo Me and Danny, e per dargli un colore diverso, molto diverso, molto diverso. Il nostro maestro Luis suonerà la tromba. Ah, ladies and gentlemen, alla tromba stasera, Luis. Vediamo. Partiamo fra qualche secondo. Blu Radio Veneto Rock. Politics and lies behind the ties. morning light. You try to keep the night alive. Meet me and Dan in the city light. She tried to dress the night in white. Everything's alright. Alright. It's the rainy day. When you smile, it's everything's alright. Onda del rock. Sai che Rock Wave si sta mal sapere. A me la tromba piace molto. Adesso mi rifai l'assolo finale, che non era leggermente diverso dal vostro sound. Non posso dirlo psichedelico, però un po' noir, quello sì. Allora, ti dirò che rifarlo uguale è impossibile. È quasi. Perché lo ripete. Perché è improvvisato. Ha improvvisato. Esatto, era. Infatti qui viene fuori proprio quella mia vena, diciamo, certo, la mia certo. provenienza, diciamo. Però se riesci a fare la fine, siamo sì. L'ultimo piccolo passaggio. L'ultimo piccolo, che è bellissimo, secondo me. Sì, perché il conduttore è pazzo, non si sa mai come va a finire. Se poco da via. Vero Michele? Decisamente. Bellissimo. A me piaceva particolarmente questo finale, perché mi ricordava determinate cose, qualche sensazione. Un pezzo, non dico noir, però malinconico. Questa malinconia che porta al finale del pezzo. Com'è l'idea? Questa è stata improvvisata. Quando avete preparato Rock Wave dal vivo, che siete venuti qua a suonare, vi siete preparati ieri, chiaramente sì. C'era anche questa come preparazione. Sì, in effetti è proprio la scelta di utilizzare la tromba è freschissima, cioè sì. Abbiamo fatto un live acustico a Brescia, ma bene, com'è andato? È stato praticamente questo weekend, esatto. Bene, in realtà è piaciuto questo aspetto, è sicuramente molto più intimo. Il nostro live generalmente è energico. Certo. Ma qua sapete, non si può fare troppa energia giusta, chiaramente. Certo, lì ha un suo senso, perché ha un suo impatto, e invece l'aspetto acustico viene invece molto, molto più intimo e sicuramente più notturno, ecco. Esattamente, sì. visto sono quasi le 23, quindi l'ora giusta. Sì, ancora qualche secondo, perché dopo abbiamo il gioco. Il gioco. Il gioco è fondamentale. Michele me l'ha già detto che il gioco è fondamentale. Teniamo il gioco. Ecco, a proposito di gioco, parliamo della tromba. Tu sei un appassionato dello strumento della tromba. Che riferimenti musicali puoi avere con la tromba? Quale musicisti ti oltre a Miles Davis, chiaramente. Quello è il principale in assoluto. Poi gli ascolti sui trombettisti comunque i miei diciamo rimangono comunque nell'ambito jazz, quindi sì. Don Kerry piuttosto che Gillespie, certo. Qualcosa diciamo anche nel territorio classico tipo Nakaryakov o Maurice André. Perfetto. Diciamo comunque questa passione diciamo più che altro è proprio la prima che è nata, perché io ho cominciato a suonare la tromba proprio da piccolo, cioè il primo strumento è stato questo, poi la sbandata per come, rock, chitarra elettrica è arrivata, mixiana quasi, esatto, è arrivata verso i 17-18 anni, quindi diciamo non tanto tempo fa, diciamo. sei giovane. No, beh, comunque, ecco, cioè, è stato il punto di partenza, l'approccio musicale è stato appunto questo. E poi, fortunatamente, l'ho avuto proprio intorno ai 7 anni, quindi ho avuto appunto la fortuna di cominciare ad ascoltare presto musica in maniera abbastanza attenta, poi per l'età che sia, comunque. Bene, siamo arrivati proprio, io ho fatto apposta per arrivare alle 22.59 e adesso iniziamo il gioco. C'è niente da dire? Chi vuole cominciare il gioco? Abbiamo fatto il riempì. Abbiamo qui un frontman che potrà cominciamo iniziare. Con il frontman. I nostri ascoltatori lo sanno già, ma lo ripetiamo. I 5 dischi, 5, una volta si chiamano i dischi, 5 vinili, 5 CD, quello che volete, da portare su un'isola deserta. La regola è ferrea, non si può copiare. Vai. Dunque... premetto, dimmi, che 5 CD non sono in realtà tanti, voglio dire, io sono abituato, ho fatto moltissimi ascolti, per cui dico che 5 CD comunque sull'isola deserta mi starebbero molto stretti. Certo, certo. Però, ma Michele non posso andare oltre i 5, perché se no Michele è vero, esatto. Okay. Dunque, io direi Nevermind dei Nirvana. Adesso ci fermiamo un secondo, perché? Nevermind perché di Nirvana? Kurt Cobain e tutto il resto. Perché per la mia generazione, cioè, è il disco che in ha qualche modo tutto. Ha cambiato la storia del rock per quello che posso vedere io. Io non ho visto gli anni 70, quindi non posso dire quello, però da lì in poi chi ha veramente il disco che ha rivoluzionato sia l'immagine sia la musica è stato Nevermind di Nirvana. Certo, certo, sono d'accordo. E questo come anche, disco... anche come dal punto di vista della copertina, bellissima. Bellissima, sì. Bellissima. Del geniale. Ok. Gli altri sono in qualche modo minori rispetto a questo, cioè sono gruppi di nicchia. Sono It's a Shame About Ray dei Lemonheads. No, perché Ivan Dando non è un minore. No, vabbè, assolutamente non è un minore. Io dopo questa posso amarti. Nel senso che io, non è un minore. Io adoro Ivan Dando. Dico minore nel senso che non è così conosciuto. Io sono stato un anno fa a vederlo in Italia, era tornato, era venuto quanta a Milano, gente aveva? Al musical, e c'erano 30 persone. Quindi voglio dire, per quello lo definisco un minore, in realtà per me è uno straordinario artista. E It's a Shame About Ray è il disco che poi li ha consacrati, certo, perché certo. Con la cover di Mrs. Robinson, sì. Loro da lì poi sono esplosi. Poi la sua carriera è stata un po' altalenante per il vizio, la droga e mille, un po' di giochetti, facciamo un po' di giochetti, esattamente. Però quello e il disco successivo, Come on Feel the Lemonheads, sì. Sono straordinari. E il disco che ha fatto adesso è molto bello, sai, l'ultimo, quello l'ultimo. Di cover? Esattamente. Sì. C'è una versione meravigliosa di un pezzo di Leonard Cohen, a mio parere. Sì. Insieme a Liv Tyler, esattamente. Insieme a Liv Tyler c'è questo duetto strepitoso. Esattamente. Quello non è, non posso dire che sia un disco bellissimo, però ha questi sì. acuti incredibili. Sì, sì. Beh, io ogni volta quando lo ascolto adoro la sua voce, adoro il suo modo, e quindi in realtà mi è piaciuto molto. Ovviamente mi sarebbe piaciuto di più un disco scritto da lui. Perché che, certo. Insomma, per me tutte Michele le sue canzoni. In fondo è Michele trova sempre qualcosa. Esatto. Trova sempre qualcosa. Vai, vai. Poi sei arrivato al secondo. Sì. Where Ya Been dei Dinosaur Jr. Ecco, sono venuti a suonare di recente. Sono stato a vederli proprio venerdì sera, ecco, sempre a Music Trump, che è un po' un tempio degli anni 90. Hanno detto una cosa, io ho sentito un programma Rai famoso del sabato, che dicevano che il volume era altissimo. Era impressionante. Ecco, appunto, è proprio cioè, così. I Dinosaur Jr. hanno questo aspetto. La composizione è molto pop e straordinaria, viene da Boston. Jay Mashis, no, quindi non ce n'è mica Dinosaur Junior. Dimmi. Jay Mashis era di Boston e condivideva l'università con Ivan Dando. Sì. Però forse l'hai portato tu i Dinosaur Junior. però sono in macchina. Dai, poi ascoltiamo un altro pezzo così recuperiamo. Sì. Ok, sì, sì, è vero questo, hai detto una cosa. Certo è che però la live sono estremamente violenti. Lo sai, hai letto il discorso del live per i dischi, hai letto che il volume è troppo alto, allora hanno dovuto ritirare, o almeno hanno cambiato le copie del disco perché era troppo alto, allora hanno dovuto modificarla. Sì, sì, no, ma loro hanno ormai questa entità così spaventosa. Ecco. Spaventosa, sì. Però quando a un certo punto l'orecchio si abitua, ci si gode delle cose straordinarie comunque, insomma, poi fanno parte della mia adolescenza, certo. Quindi in qualche modo un ricordo, e questo disco mi è piaciuto moltissimo. Io ricordo la prima volta che ho visto il video di Out There e di Get Me, certo. Tratto da questo disco, con questo personaggio in pieno stile anni 90 grunge, quindi sì, sì. Camicia di flanella, capelli lunghi, e che cantava con questa voce da ubriaco, esatto, sì. su accordi e distorsioni pazzesche, era veramente meraviglioso. Quarto? Sono a tre. Il quarto, Grace di Jeff Buckley. Ecco, qui dobbiamo sempre dire una cosa interessante e fondamentale. Tantissime band che sono venute qua hanno citato Jeff Buckley e Grace perché è un disco epocale. Fatto solo quello, però ha fatto è solo epocale. Sì, sì, adesso sì. Al di là delle raccolte che la madre fa pubblicare, sì. Al di là di questo, Grace rimane Grace. Un disco epocale, Grace è un disco epocale ed è veramente incredibile, perché in realtà poi quello che viene dopo, cioè lui è morto poi, sì, affogato nel Mississippi, sì, perché lui voleva fare un bagno, dopo non si sa per sì. Qual motivo voleva fare un bagno o altre cose, però è morto affogato nel Mississippi, sì, proprio fatto... nella lavorazione di Sketches, esattamente, che esattamente. In realtà è di valore molto meno elevato di Grace. Grace, certo. Resta una perla unica. Una capacità vocale straordinaria, ma poi una composizione che anche lì attinge dai vari generi musicali, ma non è mai schiavo. Attinge anche da suo padre. Sì, sì. Suo padre era un genio. Sì. Era un genio impossibile in alcuni momenti, però era un genio, secondo me. Sì. Tim Buckley. Ok. E come quinto disco, e non è l'ultimo, è solamente quinto per citare l'ultimo dei cinque, ma no che sia l'ultimo nel senso peggiore, questo certo. No. Come quinto disco, ma io farei una virata e abbandonerei gli Stati Uniti almeno per un disco, almeno per un disco, e direi, sono molto incerto tra i Cure e gli Smiths, però dico Wish dei Cure. Ah, va bene, ok. Perché è un pop che lui c'è sempre in ogni caso, leader c'è sempre in ogni c'è caso sempre, sì. Lui fa disfa, sì. Il gruppo di Resciogli, ma non è vero, è sempre presente, si avvicina sempre, e quello è il momento è più... un grande Robert Smith, è un grande, sì. E quello è il momento, eccoli più eccoli pop. Eccoli, c'era una mosca, era una mosca, sì. E questo è proprio il singolo di Wish, che esattamente è Michele, quando pesca bene, sì. Esatto, è un pescatore provvedente. Vai Simone, Simone ti chiami? Sì. Simone, Simone, sì. Perfetto. Allora, io invece mi porterei... A me piacciono i gruppi innovativi. Mm. E per cui porterei... Anche Cure una volta erano innovativi. Sì. Un po' di tempo fa. Sì, più recenti. Più recenti, sì. Neanche, non è vero. Comunque, mi porterei un disco dei Radiohead. Ecco, quale cita di disco di Ce ne sono tanti, però penso Ok Computer. Ah, quello è anche quello è un disco epocale. Sì, ha aperto le porte al successo mondiale, ma non perché è un disco facile, perché è un disco bello. È un disco bellissimo. È bellissimo. E comunque mi piace molto... La scrittura, eccoli. Esatto. La scrittura di Tom York ti piace. Esatto. L'innovazione nella produzione che ha portato. Altro disco che vi porterei, andrei su un gruppo molto classico, Pink Floyd. Ah, Dark Side of the Moon. Ecco, quello è stato citato, e io ripeto, io quando i gruppi dicono The Dark Side of the Moon, io dico, perché no Atom Heart Mother? Oddio, io sono molto legato ad alcuni pezzi che sono contenuti in quel disco. Ho iniziato a suonare sulle note di quel disco. All'epoca la chitarra, sì. con David Gilmour, studiando pezzi, esatto, suoi pezzi di, per esempio, Time piuttosto, certo. Che Money. E quindi ce l'ho molto, molto nel cuore. Molto... Beh, perfetto. Pink Mi Roy, porterei quindi... un disco. Eccoli qua. Mi porterei un disco Di Frank Sinatra. Uno qualunque. Però. Ma non si sa mai che devo fare una seratina romantica. A proposito di Frank Sinatra, lunedì abbiamo celebrato i 40 anni di Abbey Road dei Beatles. Assolutamente. Sai, 8 agosto 1969-2009. E il pezzo che ha cantato Frank Sinatra era Something di George Harrison, che era contenuto nell'album Abbey Road. Non lo sapevi? Non lo sapevo. Te lo dico, questo è sicuro, non so. E Something era un pezzo scritto da George Harrison e che è stato reinventato quasi dalla voce di Frank Sinatra. Chiusa la parentesi. Vai. E vabbè, poi mi porterei. Eccolo. È My Way questa cosa. È un classico. Vabbè, va benissimo. Oh, stasera Michele è scatenato, giustamente. Fantastico. Lui è regista, deve essere scatenato. Poi mi porterei in onore di un grande personaggio che ci ha lasciato da poco, un disco di Michael Jackson. Porterei Thriller. Sì. Ecco, adesso arriva Michele, un esperto di... momento che lo sta cercando. Momento, adesso... Sì, perché adesso chiaramente lo stanno riscoprendo, certo. Però Thriller è un grande album. Non so, 110 milioni di copie che ha venduto. È un grande album perché era innovativo. Assolutamente, ti ripeto, mi piacciono molto gli artisti innovativi. Così come nella musica, come nell'arte in generale, i geni. Ecco, sottofondo, è sempre lui. Anche perché non si sa mai sull'isola se si vuole fare quattro salti, appunto, ci si deve muovere, chiaramente. E per concludere io direi, che ne so, Interstellar College Radio, giusto? Perché no? Perché no? Perché no? certamente, perché no? Ok, tocca a te allora. Io partendo, il nostro batterista. Esatto, partendo dall'inizio direi Made in Japan del 72, Deep Purple. Come mai Deep Purple? Dal vivo, scatenati. Perché sono è il primo vinile che ho ascoltato. Una volta si c'erano vinili, ci sono ancora adesso. Era doppio quello là. Il vinile di mio padre, che tra l'altro suona la batteria, è quello che mi ha fatto iniziare, che mi ha dato la possibilità di avere l'approccio con la batteria. Da lì poi ho continuato, l'ho quasi consumato. Eccoli. Esatto. E quindi Made in Japan, assolutamente bello. Protagonista come primo disco che mi porterei. Come secondo disco... direi Groove Collective. Che sono una band estremamente funk. Sì, esatto, esattamente. A cui sono molto legato. Vedi caso. Poi il Cinematic Orchestra. Ah, come mai Cinematic Orchestra? I Cinematic Orchestra mi piacciono molto perché il jazz a me piace, ma devo dire che ascoltare il jazz è molto complicato. Certo. E piacendomi anche la musica elettronica, loro sono riusciti a scindere le due cose, quindi fanno un jazz elettronico in puro stile inglese. È vero. Che mi piace veramente molto. E l'album The Man with the Movie Camera, che è bellissimo. È bellissimo, sì, sono d'accordo. È il mio preferito. Gli altri sono molto più elettronici rispetto a quello. Poi direi gli Incubus, che sono una delle mie band preferite. Ah, vai un po' sul pesantino. Leggermente sul pesante. leggermente sul pesante, leggermente. Sì, non moltissimo. Diciamo non moltissimo, però. Non come Fungus Amungus, no. Che è fantastico, il loro primo album. E poi... Te ne hai ancora uno, mi pare, sì? Sì, ancora uno, l'ho dimenticato. Sì, certo, i Radiohead, anch'io, The Bands. Ah, ecco, un po' all'inizio di carriera, o quasi. Sì, insomma. Perché ci sono delle canzoni a cui sono molto legato per dei momenti particolari e... Bene. Quindi direi, Radiohead non possono mancare. Ottimo, adesso tocca a te. Prima abbiamo parlato della tromba volutamente. Io sarò un po' prevedibile, per allargare la tua ragionazione. Esatto, dunque molto prevedibilmente mi porterei Kind of Blue di Miles Davis. Chiaramente, penso, non Beach Blue? Ma Beach is Blue dipende, diciamo. Dipende. Perché Kind of Blue, secondo me, c'è cioè chiunque ascolti jazz, dubito che non ci passi per certo, Kind of Blue. Ci deve passare nessuno. Mentre, diciamo, per gli appassionati del mainstream, Beach is Blue magari è un disco. È stato anche un disco epocale, non soltanto per i jazzisti, mi è stato un disco epocale anche per i rockettari, assolutamente per questo. Io amo sì. Ecco, vedi. Esatto, ma anche perché nel periodo in cui è nato Beach is Brew, cominciavano a esserci contatti fra Davis e Hendrix per certo. Una possibile collaborazione. Certo, verissimo, due mostri sacri. Caspita, infatti, cioè, è impossibile non portarseli, quindi il secondo evidentemente quello che è successo sarà mondiale. Un experience di Hendrix magari. Certo, è successo mondiale... Miles Davis l'ha avuto con Time After Time di Cyndi Lauper. Sembra vero, però è così. Esatto, sì, ma fra l'altro... Fra l'altro l'ha interpretato in modo bellissimo, geniale. Sì, ma infatti, ma lui era abituale, diciamo, a rubare un po', sì, a destra, ma anche, diciamo, anche con Summertime di Gershwin, certo. Anche lì è stato un altro colpo grosso, diciamo, una versione storica, quella di Davis. Quindi, Miles Davis, number one, poi? Number one, poi appunto è Hendrix, qualcosa di Jimmy. Porterei Experience. Cioè, ma poter portare tutto ovviamente. Sì, non però... ne sono tanti album, capito? Esatto, dischi. Però c'è proprio per non lasciare indietro niente, perché per un chitarrista diciamo che è vitale, diciamo. Esatto, sono d'accordo. Io amo particolarmente un pezzo di Andy, si chiama All Along the Watchtower, perché senti, proviamo a sentire nella versione di Dylan, lo senti nella versione di Hendrix, è tutto un altro pezzo, nonostante sì, sia firmato da Bob Dylan. Ecco. Non è quello, però va bene lo stesso. Va benissimo lo stesso. Minacce. Tutto bene, dal primo all'ultima nota, vai. Esatto, sì, anche Ijo è apprezzabilissimo. Esattamente. Poi, un altro chitarrista che sicuramente meno conosciuto, più attuale, secondo me ha dato parecchi spunti nell'ambito ancora jazz e avant-garde di adesso, che mi piace un sacco, è Bill Frisell. Ah, bravo, molto bravo. Esatto, e il disco in questione è Intercontinental, certo, che è appunto un Grammy per la World Music, è un disco secondo me anche quello fantastico. Poi porterei il Per Gynt di Grieg. Un po' di tutto, diciamo. Un po' di tutto, esatto. E poi, per essere un po' più attuali, altrimenti passo per un cinquantenne gli ascolti, porterai Continuum di John Mayer, che ho capito, comunque, sì, beh, è come dire la derivazione moderna di Hendrix. Certo, diciamo, certo. Anche perché nel disco c'è Bold as Love, certo, e altre citazioni. Benissimo, 23:15 quasi, ci riposiamo un poco e sentiamo un altro pezzo dal vostro album. Non mi ricordo la traccia che avete scelto. Che traccia avete scelto? La 9. Clothes on the Ground. La traccia 9. Numero 9, ok. La sentiamo e poi ne parliamo. Blu Radio Veneto Rock. Falling down, stay L'onda del rock. Ok, si stavo mettendo a posto gli occhiali e non riesco più a metterli a posto, li metterò a posto più tardi. Diretta rockway.altervista.org, ci potete sentire e vedere proprio stasera con i Kafm, che ci danno un ascolto completo del loro album e non soltanto del loro album. Gli strumenti, l'importante gli sono gli strumenti live, bellissimo. Allora, parliamo di questo pezzo, come è nato, come si è sviluppato. Esattamente, la traccia che abbiamo sentito. Sì, sì. Ma Close on the Ground è un pezzo molto particolare, nel senso che si differenzia un po' come composizione. Ha una composizione quasi più inglese per certi aspetti. Sì, è vero, hai ragione. E in realtà è stato pensato come... descrive una storia d'amore tormentata. Immagino lui... lui che parla è una sorta di Bukowski, cioè è uno scrittore, ma nello stesso tempo una persona che in qualche modo viene portata alla deriva dalla vita, e questo crea una situazione di storia di coppia e d'amore e tragica, che secondo me è una delle tensioni più straordinarie che c'è anche nella letteratura. Ci sono alcuni momenti letterari, io amo molto leggere, che in qualche modo mi hanno portato in quella direzione. Per esempio una storia d'amore che immagino di questo tipo è quella raccontata nel Viaggio al termine della notte di Céline, sì. Tra il protagonista Bardamu e Molly, che è una prostituta che conosce a New York, ed sono pochissime pagine, perché dura pochissime pagine questa storia. Poi lui se ne deve andare perché in realtà vive una vita molto inquieta, proprio l'incapacità tipica dell'artista, che ha una capacità d'analisi ma nello stesso tempo ha un'incapacità nella vita, e questo lo porta lontano. E questo aspetto appunto, e ricorda quindi una vita durissima a New York, perché lavorava per le fabbriche, quindi viveva una vita estrema, e la dolcezza è stata data proprio da questa Molly, che poi abbandona e di cui non sa più niente. Ritornerà poi in America molti anni dopo, proverà a cercarla ma non la troverà più. E questo si ricollega un po' al pezzo che facciamo sentire adesso, che è un pezzo degli Smiths che noi adoriamo, tra l'altro è una cover che facciamo anche nei live, che è un'altra storia d'amore tragica. Certo. Si intitola There is a light that never goes down, goes out, e appunto parla di due persone che, in particolare lui, che si trova in una situazione di difficoltà e di disagio, e dice: se io potessi scontrarmi contro un autobus a due piani e morire adesso in auto con te, sarebbe un privilegio, un onore. Ritorniamo un momento al pezzo che abbiamo sentito dal vostro album. Ho notato nel pezzo c'è una specie di piano elettrico alla fine, quasi elettrico. Clavicembalo. Come mai? Che è una cosa interessante, decisamente. È un po' fuori dagli schemi vostri, se posso dire così. Beh, a dirti la verità, questo è un pezzo che è stato arrangiato insieme ad un nostro caro amico. Citiamo tutti la gente che ha partecipato. In questo caso si parla di Gianmarco Martelloni, che anche lui ha da poco pubblicato un album che si intitola La superficie del mare, e insieme a lui abbiamo prodotto due tracce, che sono appunto Close on the Ground e Spiders, che sono in effetti i due pezzi che si discostano leggermente rispetto, non dico molto, però sì, qualcosina sì. Esatto, al resto del disco. E questa è stata una sua idea, e effettivamente ci è piaciuta molto, e l'abbiamo approvata. L'avete sposata quindi al 100%. Sì. Ritornando al pezzo che adesso sentiamo, il pezzo degli Smith, c'è sempre stato il dualismo tra Morrissey e Marr. Come mai, secondo te? O secondo voi, visto che gli Smith hai citato? Un dualismo potente, anche il gruppo si è sciolto anche per quello. Sì. Ma forse si è sciolto perché era giusto che dovessi sciogliere. Certo, ma è bellissimo, cioè, tantissimi gruppi nascono proprio dall'unione di più persone e da un dualismo. Molto spesso personalità molto forti che nel carattere sono in contraddizione, poi artisticamente sono in grado di creare cose, certo, straordinarie. Questo vale per tantissimi, tantissimi gruppi, anche per i Pink Floyd, per esempio, un altro gruppo che si è distrutto a furia di litigi. Sì, dal punto di vista legale, sì, molti litigi dal punto di vista legale, perché il marchio Pink vuol dire Waters da solo non vuol dire il marchio Pink, e siamo sempre là. Esatto, esatto. E anche lì, Waters era un genio, sì, perché ha scritto quasi tutto lui, però senza il tocco di Gilmour e la voce di Gilmour non era la stessa cosa. È la stessa cosa, la gente comprava Pink Floyd, non comprava Waters, è quello, sì, il discorso, anche se Waters scriveva tutto qua. Sì. Sentiamo gli Smith allora adesso, sì, ok? Blu Radio Veneto Rock. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the blind. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me tonight, take me anywhere, I don't care, I don't care, I don't care. And in the darkened underpass, I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out. Take me anywhere, I don't care, I don't care, I don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one, blah, blah, blah. Oh, I haven't got one. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Rockway, l'onda del rock. Sì, Morrissey aveva la voce, ma se non c'era la chitarra di Mara, c'è poco da fare. due geni possono andare avanti un po' di anni, e poi chiaramente due geni non possono più andare avanti, ognuno è andato per la propria strada. Morris ha fatto tanti dischi, un po' troppi, ma ha fatto pochi dischi, molto pochi praticamente, quindi anche loro, qualcuno dice, si possono rimettere assieme, non so se sia giusto ormai. Forse la poesia si è persa. Poesia si è persa, esatto, come tanti gruppi si sono ricostituiti, per esempio i Genesis, i Police, ma sono per soldi, qualcuno dice, quasi che sia vero. Per i Police non lo so, per i Genesis bah. Però è bello, meglio essere un buon ricordo. Sì, cosa dite? Anche perché ogni cosa ha il suo tempo. Esattamente, ogni cosa ha il suo tempo, sì. Sì, anche il suo tempo, anche quello, sì, un po' più tardi adesso. In ogni caso, sì, a proposito di ricostituzione, voi lo sapete sicuramente, anche i Led Zeppelin dovevano ricostituirsi, ma uno ha detto no, basta, è stato Robert Plant, ha detto no, a me non interessa, e non ha fatto, Jimmy Page, forse ho sbagliato, Jimmy Page, non mi interessa, nonostante che abbiano avuto delle richieste strepitose, ha detto di no, e basta, non c'era più Bonham. Non c'era, il batterista se n'era andato un po' di tempo, però c'era il figlio di Ringo Starr, poteva essere, sì, però sì, effettivamente poco senso, nel senso che diventa un diventa appunto un tentativo fatto per soldi, però chi se li ricorda in sì, qualche modo sente una differenza, certo, cioè, certo, una differenza. Beh, la vita cambia per tutti e per cui dopo tanti anni ha meno senso, cioè, ha senso riascoltare le cose perché sì, certe cose sono storiche e in qualche modo sono eterne, hanno un'attualità. Dal mio punto di vista i Led Zeppelin non tanto, però è una questione di gusto, cioè, per me i Pink Floyd oggi sono attualissimi, i Led Zeppelin un po' meno, però questa è un'opinione che so può essere molto contestata e dalla faccia vedo che attenzione, no, però è una questione di gusti, sì, insomma. È una questione solo di gusti, chiaramente è una questione di gusti. A proposito di gusti, adesso facciamo un live, non mi ricordo più cosa c'era da suonare. Suoneremo Smile. Smile in versione appropriata, live, acustica. Acustica, esattamente. Sì, fa qualche secondo, partiamo. È una cover. Blu Radio Veneto Rock. Nobody, nobody soon. smile, smile, smile. Days in the dark and the night's on fire. Smile, smile, smile. Ghosts they don't need any door. Sleep walking around all alone, singing a song at your door, but nobody, nobody's song. Rockway, l'onda del rock. Ok, sì, qui il conduttore è un po' pazzo anche stasera. Allora, adesso rifai quello pseudo Hendrix finale che avevi tentato di fare, però giustamente in un ambito non prettamente hendrixiano, però lo puoi fare adesso. Esatto. Vai, vai. Diciamo che è proprio il tipico modo di suonare alla Hendrix, no? Vai. Perfetto, bravissimo, complimenti. Grazie, bravissimo. Hendrix ci vuole sempre. Smile, versione fatta da voi, chiaramente, dal vivo, qua siamo dal vivo lo stesso, però dal vivo sul palco. Quanto più veloce è? Molto più veloce. Eh beh sì, e speriamo anche molto coinvolgente. Molto coinvolgente. L'intento è proprio quello, diciamo, di smuovere un po' il pubblico, no? A proposito di pubblico, adesso parliamo un momento di una cosa fondamentale. Se vi ricordate le date che presunte che dovete fare o farete. Sì, noi abbiamo un tour che partirà venerdì 16 ottobre. La prima data è a Forlì, al Madame Adoré. Sì. Poi non mi ricordo bene le date, però dunque la settimana dopo siamo a Milano alle Scimmie. Poi a Grosseto al Puerto Baracoa, poi Rovato. Poi Rovato al cortocircuito. Al poi Bloom. Faremo Blue Bloom a Milano. Un mese, due mesi di percorso? Sono due mesi, sì, dicembre, fino a metà dicembre. E in realtà l'agenzia di booking, che è Antistar, sta lavorando al booking. Per cui in realtà il calendario poi completo ce l'avremo tra una settimana. Esatto, breve. Visto che ci siamo, citate anche il sito vostro, praticamente. Certo, è www.kaufmansound.com. Sì. MySpace sì. / Kaufman Sound. Perfetto, là possiamo trovare le presunte date che si seguiranno, esatto. E poi possiamo trovare le recensioni, possiamo trovare altre cose. Sì. E anche sul Facebook, che comunque è sempre un altro strumento. Beh, quello sì, fondamentale praticamente. Sì. Ringraziamo anche chi ci sta guardando. Citiamo chiaramente. Alberto P, lo salutiamo. E Coniglio. Coniglio, esatto, vi salutiamo tutti, grazie mille. Io volevo fare anche un altro ringraziamento. Vai, vai. Cioè, noi volevamo ringraziare il Triclinium, che è il nostro bar. Noi prima delle prove, dopo le prove, mangiamo e beviamo lì. E questo, insomma, per merito del loro alcol, noi componiamo. Esatto. Quindi salutiamo Alessandro, Elena e Laura. Ricordatevi di noi. Così ci farò uno sconto sulla prossima cena. Esatto. Bene. Questo è molto positivo, vero? Niente, Michele? Per niente. Ok, Michele, d'accordo, assolutamente. Diretta rockway.altrevista.org. Michele Tosoni in regia, Roberto Baldi che guida, che conduce le telecamere, e ingloriosamente il sottoscritto che conduce la trasmissione. A tutti un applauso, grazie okay. mille dell'ospitalità. Ci siamo. Allora, adesso abbiamo parlato di Smile. Facciamo un altro live perché abbiamo deciso così, perché il conduttore ha deciso così, la band ha deciso così, e facciamo una cover stavolta, una cover di un musicista che io amo particolarmente, un musicista mi pare irlandese, o sbaglio? Sì. Irlandese, ha avuto un grande successo sia in Irlanda sia in Inghilterra e anche nel resto del mondo. Si chiama Damien Rice. Damien Rice, e di Damien Rice facciamo Vulcano. Che è tratto da che album, ti ricordi? Oh, Esattamente, che l'album è, più famoso. Sì, è il, di fatto la sua punta di diamante. Di diamante, sì. Ci cioè, ha venduto mi pare 2-3 milioni di copie quell'album. Sì, là. Sì. E in realtà poi il secondo disco non ha replicato, no. E non ha lo stesso spessore, ma il primo era straordinario, accompagnato tra l'altro da una voce femminile strepitosa. E anche questo è un pezzo che ogni tanto facciamo nei concerti come cover, e si intitola Volcano. Perfetto, fra qualche secondo partiamo. Blu Radio Veneto Rock. Yourself like that in front of me. Oh, I kissed your mouth and back. That's all you need. Don't build your world around. Volcanoes melt you down. And what I am to you is not real. What I am to you, you don't need. What I am to you is not what you mean to me. You give me miles and miles and mountains, but I ask for the sea. Don't throw yourself like that. You hurt your knee. Oh, I kissed your mouth and back. That's all you need. Don't drive my love around. You do not need. What I am to you is not what you mean to me. You give me miles and miles and mountains, but I ask what I give to you is not what I'm going through. Oh, there's nothing new. No, no, and out of place of finding what I really need. It just makes me bleed like a new disease. Although she's just too young to treat what I am to you. It's not real. What I am to you, you do not need. What I am to you, volcano, it's not real. What I am to you, volcano, you do not need. And what I am to you, volcano, it's not real. What I am to you, volcano, do not need. What I am to you. It's not real. what I am to you. Do not need what I am to you. She just too young. Oh, you do not need me. Rockwave, l'onda del rock. Damien Rice sarà sicuramente soddisfatto, eh. Sicuramente soddisfatto, perché è stata una bella esecuzione, proprio si sente col pathos giusto, perché questo musicista ha qualcosa che gli sta proprio dentro, nel cuore, nel senso positivo del termine. È un grande musicista, un giovane musicista, però molto interessante, molto bravo. Anche come tu giustamente hai detto prima di cominciare questo pezzo live, che nel secondo album si è un po', non è che si sia un po' perso, non ha bissato la pregevolezza del primo. Questo sì. È un po' difficile bissare un grandissimo successo anche dal punto di vista qualitativo. No, sì. Cosa dici? Assolutamente sì. È un disco straordinario, come spesso sono perle uniche anche di grandi artisti, perché Damien Rice è dotato di una tecnica chitarristica, di una capacità vocale e di una poesia che è straordinaria. C'è qui un ascoltatore che ci chiede quello che la gente comune fatica a concepire, il termine college rock. Possiamo chiarirlo con l'aiuto dei Kaufman. Sì, ne abbiamo già parlato prima, però appunto ringraziamo l'ascoltatore, che è una domanda interessante. Sì, sì, esatto. E poi ci faccia anche i complimenti. In effetti ci affiancano a questo genere, che effettivamente, come dicevamo, non è definibile dal punto di vista di un genere, ma è un mondo che si sviluppa negli Stati Uniti, nel circuito college, che ha le sue radio appunto, e che ha un mondo con certe tematiche, e all'interno di questo si sono creati certi gruppi. Già come dicevamo prima, i REM sono nati da quelle, sono forse i più famosi. Quelli che ci sono, un gruppo che è affiancato a noi e che io adoro, sono i Lemonheads. Dopo magari faremo anche una parte di un pezzo che ci piace particolarmente. Io sono particolarmente adoro Ivan Dando. Ivan Dando è un musicista straordinario, geniale. Ha avuto dei problemi, molti problemi, però li ha superati. Però i geni hanno sempre dei molti problemi, sì, secondo me. Ma pensa che quando io sono andato a vederlo è successo un fatto molto particolare, perché loro dovevano suonare in trio, i Lemonheads, sì, a Milano. Esatto. E in realtà il batterista è dovuto fuggire perché aveva avuto un incidente, insomma, aveva dei problemi, fidanzata. Per cui si sono trovati con uno spettacolo elettrico, ma di fatto farò soltanto Ivan Dando e il bassista. Il bassista ha fatto alcuni pezzi, e per cui in realtà si è fatto un concerto da solo Ivan Dando, senza chitarra acustica, ma con una chitarra elettrica che a volte era distorta e si comportava come se fosse in una sala prove. Iniziava un pezzo, lo sbagliava, si interrompeva e ripartiva. Questo potrebbe dare l'idea di una persona poco seria, ma quando partiva, cioè, le persone che erano lì saltavano, cioè, e comunicava un fascino come pochissimi musicisti sanno comunicare. Cioè, sul palco era straordinario, una voce pulitissima e un concerto straordinario anche nella sua anomalia, insomma. Quindi diciamo che il college rock non è solo quello degli Weezer. No, esatto, erroneamente sì. Viene fatto passare come il genere, che ne so, di film tipo Porky's, sì, esatto, o quel mondo lì. In realtà non è così, cioè è un mondo che vive di regole sue e anzi molto spesso è drammaticamente triste. I Death Cab for Cuties, certo, sono un gruppo del genere e sono un gruppo drammatico. Sì, esattamente. Assolutamente. Qualcuno vi avvicina ai Counting Crows, cosa ne dite di questo? Siamo onorati. È un grande gruppo i Counting Crows, assolutamente, un grande gruppo. Sì, beh, i Counting Crows sono sempre vi avvicina dal punto di vista così di sfumature, di sfumature, di collegamenti. Sì. Anche perché i Counting Crows, cioè soprattutto il Mr. Jones. Sì. Pezzo favoloso e tutto quel disco lì. È tutto quel disco là, fantastico. Ghost and Everything After, sì, è un disco meraviglioso. Certo. Certo, è molto, il cantante è estremamente diverso da me, perché è estremamente interpretativo. Sì. Ha una voce molto potente, sì, ed è quasi attore. Sì, esatto. Ed è molto distante da me, cioè in qualche modo, con il dovuto rispetto, Ivan Dando è più simile a cioè, te. Sia come vocalità, sia come modo di... Alberto Prisco ci chiede: cosa ne pensate di Inada Surf? Bella popular. Inada Surf sono un altro gruppo del genere, non è un riferimento in realtà così forte nostro, sono, hanno delle sfumature un po' più punk, però quel mood lì, e sono un po', forse un po' più estivi di noi, però comunque c'è un mood che in qualche modo si avvicina, cioè siamo in quel mondo lì, ecco. E dobbiamo ringraziare Alberto che vi ha messo in classifica, è stato lui a lanciarvi qui dentro praticamente. Grazie Alberto. È vero, è verissimo, il nostro regista, anche conferma anche il nostro regista. Va bene, ok. Ok, benissimo. 23:48. Non so cosa abbiamo in scaletta. Abbiamo in scaletta un altro. Cassandra dovrebbe. Sì, Cassandra. Sentiamo il pezzo, l'ultimo pezzo dal disco, allora, ok? Very well. Blu Radio Veneto Rock. Del rock. Diretta rockway.altervista.org per sentirci e vederci proprio in questo momento. 23:52. No, lo so che non sono tanto bello, lo so, diciamolo, Michele, diciamo. lo so. Fado, posso dire che faccio schifo veramente. Ma no. Però insomma, è così, è, non c'è niente da fare. No, quello che non fa schifo è quel grande musicista che adesso tu proporrai. Dei Lemonheads, proprio dal disco di cui parlavamo prima, Drug Buddy. Mm-hmm. coming over. We go out walking, make a call on the way. She's in a phone booth now, I'm looking in, because a smile on her face. This isn't the same stuff we got yesterday. This isn't the same stuff we got yesterday. I'm too much with myself, I wanna be someone else. I'm too much with myself, I wanna be someone else. I'm too much with myself, I wanna be someone else. Since the kid up out of Fiona's door, walk until it's not aside. Go when we were on the floor. We had to laugh, to look at each other. We had to laugh, cause we're not alone. Is the cup like it's real? It's enough to start a loss. It's enough to start a love. I love my dry body, my dry body. Blu Radio Veneto Rock. Rockway, l'onda del rock. Beh, ricordiamo delle cose fondamentali. Titolo dell'album: Interstellar College Radio. L'etichetta: Mizar Records. Voi siete Kaufman. Dove si può trovare? In qualsiasi negozio di dischi oppure? Sì, distribuzione Audio Globe, per cui si trova in tutte le Feltrinelli, le Fnac, i Media World e poi su iTunes. Esattamente quello. Quindi la produzione è autoprodotto quasi. No, totalmente autoprodotto. Vogliamo citare velocemente i musicisti che hanno partecipato? Sì, allora, ovviamente alla batteria abbiamo Leonardo Traina, alla chitarra Luigi Suardi, Lorenzo, chitarre, voci, cori e chi più ne ne metta, io bassista e ho curato la produzione, sono Simone, ha partecipato alla produzione anche Gianmarco Martelloni e in Don't Blame ha suonato Simone Piccinelli, che è un musicista che suona in diversi gruppi, tra cui Plan de Fuga, sempre di Brescia, che ha suonato il Roots. Perfetto, ricordiamo che il vostro sito www.kaufmansound.com e il myspace/kaufmansound, dove ci possiamo trovare le date che abbiamo citato prima. Esatto. Possiamo trovare le recensioni, la rassegna stampa e tante altre cose interessanti, le foto. Ricordiamo la bellissima pezzi. Copertina, che siete voi gli autori, però gli ideatori sì. Esattamente, sì, siamo noi e il realizzatore. La citiamo, la facciamo vedere un'altra volta, eccola qua. È il nostro caro amico Fabio Cattabiani. Bellissima, proprio bella in tutti i sensi. Adesso aspettiamo. ecco Roberto Baldi ha preso il posto della telecamera, quindi si possono vedere adesso la copertina bellissima, perché ripetiamo un'altra volta che le etichette piccole spesso e volentieri fanno delle copertine, dei libretti molto efficaci, molto ben fatti. Infatti ringraziamo Davide Danesi, che è proprio il titolare della Mizar Records. Benissimo. Un'ultima cosa, voi siete di Brescia. Brescia ha un bel giro dal punto di vista musicale, no? Sì, è un bel giro. Ti do 30 secondi per dire qualcosa, sì, della tua città. È estremamente fertile, anche perché ci sono alcuni locali che spingono la musica originale e quindi non solo i gruppi cover. Tra questi ricordiamo la Latteria Molloy, certo, che è un locale particolarmente attivo da questo punto di vista. Ma come ce ne sono comunque molti altri, c'è una scena effettivamente molto viva. Ringraziamo anche i ragazzi che si sono collegati con voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Di cuore. Bene, adesso abbiamo finito e purtroppo a me dispiace di aver finito dopo 23:58. Michele, un'altra mezz'ora. Sei stanco Michele. Ringraziamo Michele Tosoni in regia, grazie. Roberto Baldi che ha curato le telecamere. Grazie a tutti. E voi, se avete siete venuti da Brescia a suonare da noi, quindi è stata una cosa molto positiva. Con cosa terminiamo questa bella cavalcata? Ma visto che il prossimo singolo che uscirà in radio è Empathy, abbiamo pensato di proporlo in una versione unplugged. Benissimo, una versione unplugged da parte di Kaufman. Grazie a tutti gli ascoltatori. Vi ricordo che la prossima settimana avremo un musicista di Venezia, un bluesman, si chiama Marzorati, un bravo musicista che proporrà i suoi ultimi pezzi. Grazie, adesso partiamo con il pezzo dei Kaufman. Blu Radio Veneto Rock. I'm sorry but I cannot justify this empathy. Since I try to hide, you cry, you cry, you cry. Maybe you're a part of my galaxy. Unconscious satellite. Tonight, tonight, tonight. On between the earth, we'll all go light into the heart. Tonight. She's gone. Take a look around and I miss the sound. You're gone and I'm all alone and I miss you now. Feel this sound, the universe producing till the end. Real dreams for imaginary friends. I say it like a sweet conspiracy. Something like clairvoyance. You say keep inside my head into your arms when I wake up tonight. She's gone. Take a look around and I miss the sound. You're gone and I'm all alone and I miss you now. Feel this sound, the universe producing till the end. Real dreams for imaginary Rockwave, l'onda del rock.